Il dubbio è uno degli stati d'animo più corrosivi e drammatici. Due genitori che hanno perso la propria figlia in un incidente stradale soffrono terribilmente per la perdita, ma il loro dolore non è paragonabile a quello che proverebbero se la figlia fosse stata rapita e non avessero nessuna notizia di lei. Il dubbio che la figlia stia bene o male, che sia violentata o meno, è un tormento che molto probabilmente è paragonabile solo a quello dell'inferno. Se poi in seguito la figlia fosse ritrovata morta, il colpo della notizia sarebbe indubbiamente violento, ma senza il tarlo fatale del dubbio col passare del tempo, anche se il dolore può rimanere per sempre, è possibile ritornare ad una vita normale. Per questo, la certezza di ogni situazione della vita, meno bella o brutta che sia meno, è sempre preferibile al tormento provocato dal dubbio. Il dubbio sta alla tortura come la certezza sta alla morte. In effetti, il dubbio è un'inesorabile tortura che non annuncia mai la morte, mentre la morte è il termine della tortura e infine porterà a trovare finalmente la libertà da una sofferenza. Chi non ha conosciuto una persona rosa dal dubbio? Ho presente una donna che aveva un tumore al seno. Dopo l'asportazione di questo, doveva aspettare vari anni prima di essere certa che il tumore non fosse sparso per tutto il corpo. La vedevo apparentemente serena, parlava della sua malattia come parte della vita, ma spesso di notte si svegliava preoccupata di come sarebbero andate le cose. Il dubbio che il suo male si fosse propagato in tutto il corpo era più che la sua ombra, perché questa è presente solo quando ci è il sole. Il dubbio faceva parte della sua esistenza. Forse ancora di più. Il dubbio era presente quando mangiava, quando camminava, quando rideva, al punto che il dubbio componeva la sua vita. Solo quando ha avuto la certezza che il suo male era completamente debellato, la potei vedere veramente sollevata dal suo ciclopico peso. Dunque, l'angoscia del dubbio è una delle più drammatiche esperienze della vita, e lo è ancora di più quando questo è presente nel campo spirituale. Purtroppo il dubbio meno per la sua natura meno viene considerato sempre negativo e da condannare in tutti i modi. Ma a mio avviso vi sono aspetti del dubbio che possono essere positivi, se non addirittura auspicabili. A questo proposito prenderemo in esame quattro aspetti del dubbio. E cioè quello che è causato dai nostri limiti, quello che porta alla fede, il dubbio della fede e quello dell'incredulità. Una visione più ampia del dubbio è utile per vedere dove ci è il negativo, ma anche il positivo. 1. Il dubbio causato dai nostri limiti. Dobbiamo riconoscere che il dubbio fa parte della nostra esistenza umana e terrena, perché siamo degli esseri limitati. Si può avere il dubbio di aver imboccato la strada giusta o di aver fatto il giusto acquisto. Mia moglie a volte ha il dubbio di aver spento il gas sotto la pentola o aver spento le luci. Mia mamma, molto anziana, mi chiede che giorno è oggi, mentre i miei nipoti mi chiedono, nel dubbio, un parere sui compiti che svolgono. Tutti conviviamo con dei dubbi, ma non per questo siamo in angoscia. Come esseri umani accettiamo la nostra relatività e nel dubbio cerchiamo le certezze per vivere il meglio possibile. Gesù stesso, anche se era Dio, aveva dei dubbi, e questo perché era anche pienamente uomo. Così l'Evangelista Luca racconta l'episodio del fico. Il giorno seguente, usciti da Betania, Gesù ebbe fame. Vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, Gesù andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma, avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Marco 11.1213. Gesù non si avvicinò al fico per pura curiosità, ma perché aveva fame e, dato che il fico aveva già le foglie, sperava che ci fossero dei fioroni, cioè la prima generazione di fichi, che sono tra l'altro molto buoni, meno essendo nel dubbio, si avvicinò per vedere, ma non ne trovò. È vero che Gesù conosceva in anticipo tante cose, è vero che conosceva i pensieri degli uomini, ma dato che era anche pienamente uomo sotto ogni punto di vista, il figlio di Dio ha vissuto con i dubbi insiti nella creatura umana. In questo episodio Gesù andò a vedere se vi trovasse qualcosa, non andò con la certezza che vi fossero dei fichi. Per non avere dei dubbi, bisognerebbe che noi fossimo onniscienti, ma dato che non lo siamo, dobbiamo accettare di convivere meno il dubbio. Questo aspetto del dubbio, quindi, non è né bene né male. Esso fa parte del nostro essere limitato anche in conoscenza. Perciò è fuori luogo diagnosticare sempre il dubbio come un terribile peccato, o pensare che sia sempre in antitesi alla fede, perché le relazioni umane richiedono questo. Se io impresto un libro ad uno smemorato, posso anche avere il lecito dubbio che non me lo restituisca. Come posso avere il dubbio che un maldicente sappia mantenere un segreto? Le relazioni umane non richiedono ingenuità, ma accortezza. E l'accortezza è tale solo se si parte dal presupposto del dubbio. Quando la Scrittura ci ordina di non essere garante per chi non si conosce, Proverbi 6.15, è perché vi è il dubbio che lui possa mantenere la parola data. 2. Vi è il dubbio che porta alla fede. Essendo degli esseri limitati abbiamo bisogno di prove, ma dopo averle ottenute il dubbio se è quello legittimo sparisce. Del resto le cose non possono essere diversamente, perché per arrivare alla certezza della fede spesso si passa per il sentiero del dubbio. Nella parola di Dio è descritto un avvenimento spesso poco considerato riguardante gli 11 discepoli di Gesù rimasti fedeli al loro Maestro dopo la sua crocifissione, morte e resurrezione. Lo troviamo descritto nel Vangelo di Matteo. Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e, vedutolo, lo adorarono, alcuni però dubitarono. Matteo 28.16-17. Gli 11 discepoli, in ubbidienza al loro Salvatore, intraprendono un lungo viaggio dalla Giudea alla Galilea per andare a vedere il loro Maestro, forse sullo stesso monte dove avvenne la trasfigurazione. Quando lo videro, lo adorarono come Dio, ma dopo l'attestazione di questo atto di fede Matteo aggiunge un altro particolare che lascia il lettore un poco perplesso, e cioè che alcuni dubitarono. Molto sinceramente, se io avessi scritto l'Evangelo non avrei mai aggiunto questo particolare dei discepoli, che dopo aver adorato Gesù dubitarono. Il bello della parola di Dio consiste anche in questo: non aver paura di scrivere ciò che è vero. La nostra cultura avrebbe descritto gli 11 discepoli di Cristo come 11 eroi impavidi, senza nessun indietreggiamento e senza il minimo dubbio, ma l'atteggiamento perfettamente umano dei discepoli ci dice che per tutti è possibile porre fede in Cristo e servirlo come loro lo hanno servito. E da notare anche che tutti i discepoli adorarono Gesù, cioè anche coloro che avevano dei dubbi nel loro cuore. L'esperienza dei discepoli non si avvicina, forse, alla realtà della nostra esistenza. L'adorazione è l'atteggiamento della nostra anima nei confronti di Gesù e del Dio Trino per quello che Egli è, per quello che ha fatto, che fa e farà, mentre intellettualmente possiamo ancora avere delle perplessità dovute ai nostri limiti di comprensione. Anche alcuni discepoli dubitarono, ma poi esaminarono ogni cosa e ritennero ciò che era vero, acquisirono delle certezze e in seguito furono tutti e 11 pronti a morire per Cristo e il suo regno. Gesù Cristo non disprezza chi ha dei dubbi, non spezza la canna rotta. Lo dimostra il fatto che, nonostante alcuni discepoli avessero dei dubbi, li mandò tutti a predicare l'Evangelo dando loro un'autorità particolare. Non solo. Gesù disse a tutti i discepoli che sarebbe stato sempre con loro, promessa valida anche per chi aveva dei dubbi. Nella parola di Dio sono narrati due episodi che calzano perfettamente al nostro tema e mettono in evidenza non solo che un certo dubbio è lecito, ma addirittura è utile per condurre alla fede. Il primo episodio è quello riferito alla regina di Sheba, un passo tanto famoso che viene preso in prestito da Gesù per lodare la sua fede. La regina di Sheba era una donna intelligente, ricca, ed aveva sentito raccontare che vi era un uomo più intelligente e più ricco di lei, ma era molto scettica al riguardo. Cosa più che lecita. perché di cose se ne sentono tante e non tutte corrispondono alla verità. Così, con questo dubbio intraprende un viaggio di 1000 chilometri, va da Salomone e lo interroga, vede le sue ricchezze e, tutta meravigliata, esclama: «Era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese, circa le tue parole e la tua sapienza. Ma non ho creduto a queste cose finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi». 1:10, 6-7. Avere una certa incredulità è sano e doveroso. Perché, come sta scritto, è solo lo sciocco che crede ad ogni parola. Proverbi 14.15. E per questo dobbiamo provare gli spiriti per sapere se sono da Dio. 1 Giovanni 4.1. Ma una volta verificata la verità, il lecito dubbio, se è tale meno, deve svanire. La regina di Sheba era molto dubbiosa che un'altra persona fosse più ricca di lei e sapesse risolvere tutti i suoi enigmi, ma una volta verificata che la situazione era così, non ebbe più dubbi. Qualcuno potrebbe anche sorridere perché la regina di Sheba aveva udito e visto con i suoi occhi Salomone e un atto di scetticismo sarebbe stato fuori luogo. Ma per due ragioni le cose non stanno così. Gesù ha lodato la regina di Sheba per la sua fede. E se si trattava di fede era evidente che lei potesse anche non crederci. Inoltre, quante persone hanno visto, toccato e udito Gesù, senza per questo aver posto la minima fede in Lui? La fede non è solo credere a ciò che non si vede, ma anche ritenere vero ciò che si vede e si sente. Quando l'apostolo Pietro camminava sulle acque per andare da Gesù, stava realizzando di stare a galla. Vedeva di non affondare, ma nonostante tutto iniziò a dubitare. Matteo 14.31 e iniziò ad andare a fondo. Dopo 2000 anni le cose non sono cambiate. Gli increduli vedono trasformate, serene, in pace con Dio e certe della vita eterna. Le persone che si sono affidate completamente a Cristo, eppure nonostante vedano con i loro occhi e odano con le loro orecchie, rimangono nel dubbio dell'incredulità. L'altro episodio è quello di Tommaso, uno degli apostoli di Gesù. Gli altri apostoli gli avevano raccontato che Gesù era risorto, ma Tommaso lo aveva visto morto, crocifisso, con le mani e i piedi forati, il cuore penetrato da una lancia. Come poteva ancora essere vivo il suo maestro? Il racconto dei Vangeli è molto conosciuto. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E, detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli, dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli, dunque, gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito, e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signor mio e Dio mio». Giovanni 20.1-9-28. Tommaso non era disposto a credere alla resurrezione di Gesù, senza averne constatato la veridicità, con i suoi occhi e con le sue mani. Gesù lo accontenta apparendogli e sfidandolo a toccarlo. Ma Tommaso, anche prima di toccarlo, crede e lo confessa come il suo Dio. Questo episodio mette in evidenza che Dio è in grado di accontentare una volta e per sempre chi ha dei leciti ed onesti dubbi in merito a Cristo e alle sue parole. È stato il mio caso quando ero in dubbio in merito all'ispirazione della Scrittura, se essa fosse realmente la parola di Dio. Il dubbio rodeva il mio cuore e rendeva pesante la mia predicazione, ma avuta una risposta diretta non ho mai più dubitato a questo riguardo. Il Dio trino delle Scritture non ha paura dei nostri dubbi, non si scandalizza dei nostri interrogativi. Anzi, Chi dubita perché non è un credulone e una volta convinto possiede una certezza più solida. Infatti i discepoli di Gesù all'inizio erano dubbiosi sulla sua resurrezione, ma in seguito possedettero una certezza mediante la quale poterono sconvolgere tutto il mondo. Un sano dubbio produce una sana fede. 3. Il dubbio della fede. Si ha un'opinione sbagliata in merito a chi ha posto fede in Cristo e nel Dio Trino delle Scritture. Si pensa che il credente con questo tipo di fede debba essere una persona che abbia una risposta a tutto. Anche se a tutto ha delle risposte, si pensa che non debba avere dei dubbi o delle incertezze. Questa è una visione romantica del cristianesimo perché innanzitutto, prima di essere un credente, chi ha posto fede in Cristo è un essere umano e come tale è partecipe ai dubbi che fanno parte dell'umanità. Non essendo onnisciente, il credente può ancora essere incerto di aver fatto un giusto affare, anche se per la sua fede non teme nessun evento doloroso. In più, pur avendo fiducia nella giustizia e nell'amore di Dio, alcuni dubbi di fede lo assalgono proprio perché ha fede. Giovanni, il Battista, era certamente un grande profeta, ma quando era in prigione mandò due dei suoi discepoli a chiedere a Gesù se era lui il profeta che doveva venire, o un altro. Di fronte ad un cieco, in accordo con quello che era scritto nella legge, i discepoli chiesero a Gesù: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Prima che Gesù salisse in cielo, i discepoli chiesero a Gesù: e, in questo tempo, chi ristabilirà il regno di Israele? Queste non erano solo domande sorte a causa del limite nella conoscenza, ma erano anche dubbi o incertezze in merito all'opera di Dio. Non era mancanza di fede, ma una fede che si interroga, e, vero, non sempre sappiamo spiegarci gli eventi della vita. Perché una morte improvvisa può far parte del piano divino, come può essere il risultato dell'ira di Dio. La nostra teologia in merito a Dio non è sufficiente per spiegare ciò che accade. Giustamente, l'Ecclesiaste afferma, quando ho applicato il mio cuore a conoscere, coniarati l'irare, l'affannarsi che si fa sulla terra, allora ho visto tutta l'opera di Dio, che l'uomo non può arrivare a capire tutto ciò che si fa sotto il sole perché, anche se l'uomo si affatica a cercare, non riesce a scoprirlo. E se anche il saggio dicesse di sapere, non è in grado di scoprirlo. 8 e 17. Il cristiano ha dei dubbi, proprio perché crede. I cristiani credono, secondo ciò che è scritto, che ognuno raccoglie ciò che semina. Ma come interpretare le sofferenze, i tumori e le difficoltà di certi servitori di Dio? Non sappiamo spiegarci tutto, e allora rimaniamo nel dubbio, in quel dubbio che non dubita dell'amore di Dio e delle sue vie, ma che non sa spiegarsi sempre le ragioni divine. Un tale dubbio sussiste, immerso nella felicità e nella pace di Dio. 4. Vi è il dubbio dell'incredulità. Il dubbio dell'incredulità è l'unico dal quale noi dovremmo guardarci perché esso rovina alla radice la nostra vita terrena e può portare alla perdizione eterna. Cos'è è questo dubbio di incredulità? Per rispondere dobbiamo considerare cos'è è l'incredulità e di conseguenza cos'è è il dubbio da essa scaturito. E per comprendere cos'è è l'incredulità dobbiamo considerare cos'è è la fede. La fede non è una personale opinione e neppure l'essere convinti di una cosa, ma la fede è aderire ad una testimonianza. In definitiva, per avere fede occorre prima conoscere il contenuto di una dichiarazione e in seguito aderire a ciò che si è udito. Se ho bisogno di un paio di scarpe e mi si dice che in un certo negozio le regalano, se ho fede vado al negozio, diversamente rimango a casa. Se la fede è dunque ascoltare e agire, essere increduli significa ascoltare e non agire. In merito alla testimonianza, la parola di Dio dice espressamente: se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. 1 Giovanni 5.9.12. Per 5 volte l'Apostolo Giovanni parla della testimonianza di Dio, e chi rifiuta di credere o dubita di ciò che egli ha detto è colpevole perché fa Dio bugiardo. Il dubbio che Dio abbia dato la vita eterna in Cristo porta alla perdizione, mentre il dubbio di possedere la vita eterna, una vita abbondante, la pace e la gioia per chi ha posto fede in Cristo, disonora Dio. Forse si dubita dell'amore di Dio perché si ha un marito difficile, una moglie rissosa, dei vicini ingiuriosi e le cose non cambiano. Come può Dio avere cura di me? Perché Dio, che può tutto meno, non cambia le situazioni? Rispondo con il seguente episodio. 2 bambini al mare parlano dei loro papà, che è forte. Il mio papà è forte, dice il primo, perché ieri quando siamo andati sul mare con una barca, stavo per cadere e il mio papà con una mano mi ha afferrato al volo. Anche il mio papà è forte, disse il secondo. Ma sei caduto in acqua, rispose prontamente il primo. È vero, disse il secondo bambino. Ma quando il mio papà ha visto che cadevo in acqua, non me lo ha impedito. Anzi, si è tuffato anche lui e ha preso l'occasione di insegnarmi a nuotare. Oggi, grazie a quella caduta, io so nuotare. Sì, il Dio dei cristiani è forte da impedire ai suoi figli di passare per certe prove. Ma la sua potenza è messa in evidenza maggiormente quando vi sono delle difficoltà, perché è capace, nonostante tutto, di modellarli, di istruirli e di rivelare il suo amore. Ci vuole più capacità ad impedire il male, oppure ad usare il male e trasformarlo in bene. È più facile fare del bene con il bene o fare del bene con il male. Di fronte a queste domande, ogni dubbio muore sulle labbra, specialmente quello dell'incredulità. Pietro Abelardo, il dubitare ci conduce a formulare domande e domandando noi giungiamo alla verità. Il dubbio non è tanto un peccato come molti pensano, quanto piuttosto il necessario principio di ogni conoscenza. Ottobre 2006, Ellero,